I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il dato è vecchio, è del 2012, ma è comunque il più recente e forse questo dimostra già che qualcosa non va. Comunque nel 2012 la spesa per la ricerca censita dall'Istat è aumentata di quasi 2 punti percentuali in termini reali e ha raggiunto ormai quota di 20,5 miliardi. La spesa per la ricerca rapportata al prodotto interno lordo è sempre bassa ed è ferma all'1,26%, ben lontano dalle quote di Germania, Francia e Gran Bretagna, solo per citare alcuni paesi con nostri competitori. A questi numeri poi va collegato un altro dato che deve farci riflettere. L'università italiana è in grado di tenere solo il 6% dei propri ricercatori, fatto che in gran parte alimenta la fuga dei cervelli e di fatto impoverisce il nostro paese della risorsa più preziosa, cioè le persone e le loro competenze. Comunque, per quanto sia aumentata la quota di spesa pubblica in ricerca e sviluppo, è il privato che fa la parte più grossa nei finanziamenti della ricerca e ormai raggiunge il 54% del totale, superando la cifra di 10 miliardi. Si tratta di una somma rilevante che tuttavia non tiene conto, perché non rientrano nei dati e nei parametri dell'Istat, degli sforzi che fanno le piccole e medie imprese, che sono poi la stragrande maggioranza del tessuto industriale italiano. Eppure questi sforzi esistono e stanno creando quel tessuto cosiddetto di medium tech, che unisce abilità manifatturiera storica dell'Italia. È una innovazione costante fatta magari di piccoli passi che dà alla modernizzazione dell'industria, quindi del paese, la vera consistenza per durare nel tempo. Ma certo non basta lo spontaneismo degli uomini di buona volontà o degli animal spirits del capitalismo per far decollare davvero la ricerca. Serve attenzione strategica anche da parte delle politiche pubbliche e probabilmente immaginare un credito d'imposta semplice e facile da esigere per chi investe potrebbe davvero essere una buona soluzione per le imprese, ma soprattutto per il paese. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Pochi minuti dopo il voto finale alla legge che consente di riportare in Italia i capitali illegalmente detenuti all'estero, sui media e sulla rete si è scatenata ieri una polemica per l'arrivo di un nuovo condono fiscale. Poi è intervenuto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha detto: no, attenzione, il rientro dei capitali non è un condono, nulla di paragonabile agli scudi fiscali fatti tra il 2001 e il 2009. Cerchiamo allora di capire se con questa procedura si sta davvero facendo un regalo agli evasori. Il primo aspetto: il rientro dei capitali ripropone un metodo che si chiama voluntary disclosure, che è definito a livello internazionale e che è stato utilizzato in moltissimi paesi, per esempio anche in Germania. Secondo aspetto: chi regolarizzerà le somme di denaro che detiene illegalmente all'estero dovrà pagare in Italia tutte le tasse per gli anni che sono ancora accertabili del fisco. Dovrà poi pagare le sanzioni, seppure con uno sconto, e gli interessi. Terzo aspetto: chi farà il rientro dei capitali non potrà essere generalmente condannato penalmente, e questo forse è il beneficio più rilevante per questa procedura, che altrimenti prevederebbe pene significative. L'operazione funzionerà? Beh, probabilmente sì, perché ci sono accordi tra i paesi che renderanno presto possibile per il fisco italiano trovare chi detiene illegalmente soldi all'estero, anche in alcuni paesi come ad esempio la Svizzera, dove in passato gli evasori potevano dormire sonni tranquilli. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.